Picchi di frequenza, storie, viaggi, recensioni, la montagna vissuta a 360 gradi. La puntata numero 96 di Picchi di Frequenza apre con un incontro un po' particolare. Parliamo di montagna accessibile, di un progetto che porta la disabilità in alta quota e lo facciamo appunto con uno dei suoi protagonisti. Procede con un incontro in compagnia di Peter, tra le altre cose, a Peino Romano, che ci racconta i luoghi del terremoto vissuti a piedi e poi, come di consueto, l'appello verso la puntata numero 100. Comincio il 18 maggio. Questo è il percorso. Comincio da Amatrice, vado giù a Campo Tosto, poi salgo sui Monti della Laga. Faccio tutti i Monti della Laga fino a Spelonga. Poi alla Quadra Tronto, salgo su per Castelluccio, Castel Sant'Angelo, Viso, Ussita. Poi torno giù per i Sibillini, ad Acquata di nuovo. Poi faccio accumuli e finisco ad Amatrice. Questo è il percorso. 12 montagne perché ci saranno 12 cime sopra 2000 metri fra i laghi e i Sibillini. Queste sono le date, dal 18 maggio fino al 2 giugno. Voglio vedere anche se non fa parte di questo cammino, però voglio vedere anche questo fiume famoso, il Torbedone, vicino Nocia, che questo fiume che è scomparso cinquantine di anni fa, poi è uscito con il terremoto di ottobre, in pieno, quindi voglio vedere anche questo fiume quando sto lassù. Leonessa, abbiamo incontrato l'associazione La Via del Sale, Onlus, che si è mossa molto molto bene nelle zone del sisma, perché da soli sono riusciti a consegnare, se non sbaglio, una 32-33 case, sì, sale. Stavamo a 33 quando siamo passati noi. E a proposito del mostrare il dolore in questa situazione, lì un po' ce la siamo posta la questione, perché nella casa d'Aurora è una ragazza di 11 anni con una grave malattia, gravi malformazioni, e hanno vissuto per più di un anno dentro un camper sotto la neve anche, e poi la Via del Sale si sono avvicinati a questa famiglia e in meno di 6 mesi, immagino, hanno consegnato una casa a tutti gli effetti, una casa definitiva, a norma per la ragazza, e da soli, senza l'aiuto di nessuno, hanno consegnato queste case. Addirittura hanno consegnato una casa definitiva per una ragazza con gravi problemi, pagando il tutto un terzo rispetto a quello che lo Stato stava facendo in quel momento. era l'unico modo a piedi per andare a Castelluccio da Noce. Qui stiamo arrivando a Castelluccio, proprio il 30 ottobre, l'anniversario del terremoto che come vedrete ha distrutto il paesino. Qua stiamo nella zona rossa. Dopo c'è Annalisa dell'Onlus di Castelluccio che vi parlerà un po' della situazione a Castelluccio. Qua sul Monte Vettore, con i sibillini che spuntavano dalle nuvole. E qua... sì, non è il cime del Redentore. Questo è Pretare, che sta sotto il Vettore. Qua Tufo, che è un paesino sulla Salare Vecchia. Questo è Pescare del Tronto, che è forse il posto che mi ha colpito di più. L'obiettivo del prossimo cammino è vedere come sono state le persone dentro queste case durante l'inverno. Perché quando sono passato io c'erano persone che sì, stavano bene, altre che si lamentavano. Però bisogna vedere come sono stati con il freddo, con le nevicate. Ci sono stati due momenti. Prima a Rocuricchio, è questo posto che non conoscevo, che sta un pochino sopra Noce, venendo da Cascia. Là mi sono fermato in una piazza, in un paesino, e era stranissimo perché metà del paese era intatto, l'altra metà della piazza c'erano le crepe, case distrutte, eccetera. E mi hanno raccontato per una stranezza geologica, per la conformazione della terra, una parte del paese, proprio metà, è rimasta bellissima, però l'altra metà è rimasta quasi per terra. E avevo già visto un po' di questi posti nei sopralluoghi, nei viaggi, quindi avevo già visto le macerie. Ad Occhio mi ha colpito una cosa piccolissima. Là si vede nelle foto, c'è una scala con una casa che si è alzata di 30 cm. Non si capisce se la terra si è abbassata o la casa si è alzata. Quindi c'è questo vuoto sotto la scala. Un'immagine, cioè, non capisci quanto magari non so, un paese distrutto, però là si vedeva in 30 cm la forza del terremoto. Poi a Castelluccio, io conosco Castelluccio abbastanza bene, e adesso quando ci si arriva da lontano sembra il paesino che era, c'è sempre quella forma così sopra la collina. Quando ti avvicini un po' si vede che un po' delle case sono crollate, eccetera, però è solo quando entri dentro che vedi la distruzione quasi totale. Là ci sono le case che si sono scivolate giù, si sono spiantate contro altre case, ci sono i vicoli che non esistono più, non puoi capire dov'era il vicolo, dov'era la strada, è tutto cambiato. Buonasera a tutti e grazie per averci dato modo di essere qui con voi. Allora, io sono Marisa Tarra, faccio parte della Onlus, sono una castelluccana. Allora, noi dopo la scossa del 24 agosto non abbiamo avuto tantissimi problemi, insomma alcune case erano state lesionate, ma il boom è stato proprio il 30 ottobre. Considerate che a livello geologico molti studi lo avevano messo per iscritto, Castelluccio di Noce era inattaccabile dal terremoto in quanto il terreno sotto era vuoto e quindi tutte le scosse sarebbero tornate indietro. Very well, and I think I can face very well. Wish that you. Con il terremoto del 30 ottobre Castelluccio non c'è più e la zona rossa è Castelluccio. Tutto ciò che è fuori la zona rossa sono degli edifici nati successivamente negli anni, ma la zona rossa è proprio il borgo che visto da vicino, come dice Peter, non esiste più. Una casa effetto domino, una casa attaccata all'altra ed è stato tutto in un secondo è andato via. Castelluccio viveva moltissimo con il turismo, soprattutto d'estate, i mesi estivi, d'inverno un po' meno, anche se vivevano delle persone, c'erano anche l'inverno. L'inverno arriviamo a meno 29, meno 28, quindi il freddo e la parte climatica non permetteva di abitarci in modo sereno e comodo. D'estate le attività produttive erano tantissime, le aziende agricole tantissime, quindi c'era un grandissimo turismo che girava intorno a tutto questo. Ora non c'è più nulla, sono passati quasi 2 anni e non c'è nulla. Purtroppo il clima e le condizioni atmosferiche non permettono di andare avanti, nel senso che quando hanno cominciato a muovere qualcosa ha cominciato a nevicare, perché parliamo di 1450 metri, il vettore del 2004, e quindi le condizioni climatiche e la grande neve hanno fatto rifermare tutte le attività che stavano iniziando. Noi come Onlus stiamo cercando di creare un centro di aggregazione, ma anche questo per il comune stesso, che forse ci rendono conto, non lo so, non l'ho detto ma non lo dico, e non riusciamo a trovare un posto adeguato o non vogliono, per far sì che questo centro di aggregazione avrebbe portato 200 posti, una cucina, dei servizi, un teatro, e far riprendere la vita della comunità che ad oggi non c'è più, usi e costumi che ancora ad oggi, ancora 2 anni fa, si cercavano di portare avanti. Quindi il 26 novembre del 2016 noi giovani abbiamo preso le redini in mano, abbiamo creato questa Onlus, non tanto per vedere noi Castelluccio, ma per il rispetto del passato, dei nostri nonni, dei nostri genitori, e per il rispetto del futuro, dei bambini che verranno, perché noi ormai non lo vivremo più. Very well, I believe I know you. Very well, wish that you knew me too. Very well, and I think I can deal with everything going through your head. Very well, and I think I can face very well. Wish that you. Che si chiama La Lunga Marcia, che era iniziato dopo i terremoti dell'Aquila del 2009 e che ha acquisito una particolare urgenza, una particolare importanza da un anno e mezzo a questa parte, dopo quello che è successo anche con gli eventi sismici che hanno colpito Amatrice e le zone limitrofe nel 2016. Quando l'abbiamo conosciuto l'estate scorsa, in questo cammino in cui anche Ape ha partecipato, ci aveva già accennato ad alcune idee che aveva per un progetto in solitaria. E quello che la maggior parte di noi ha pensato è che fosse un po' matto, perché ci ha detto che la sua idea, quello che voleva fare era organizzare una marcia per conto proprio, per raccogliere fondi, quindi in solitaria, zaino in spalla, e che attraversasse tutta la penisola. Non lo conoscevamo e quindi non potevamo sapere che è una persona che pensa in grande ma poi le cose le fa anche, e questo progetto è diventato realtà con un'iniziativa partita nell'ottobre del 2017 e che l'ha visto attraversare da Ostia a San Benedetto del Tronto tutte le zone colpite dal sisma, con lo scopo di raccogliere fondi per 3 onlus che operano in questi territori. Sono sicuramente territori che non sono territori familiari, ma sono luoghi lontani da quella che è stata forse per molto tempo la sua esperienza di vita. Thank you. A picchi di frequenza abbiamo descritto più volte la montagna come luogo di serenità, di pace, di libertà, dove provare sensazioni che forse a volte solo sulle terre alte l'essere umano può provare. E abbiamo anche detto più volte che la montagna è un luogo per tutti e quindi che non occorre essere superuomini o altro per poter vivere e godere appunto degli ambienti alpini. Ci sembra quindi carino questa sera parlarvi di un progetto che promuove l'associazione I Super Sportivi, un progetto che appunto ha per scopo, tra le altre cose, quello di avvicinare persone affette da disabilità o problemi relazionali appunto al mondo della montagna. Ne parliamo con Massimo, uno appunto degli esponenti di questa associazione. Ciao Massimo. Ciao a voi e grazie di avermi invitato. Ecco, raccontaci un po' quindi come nasce il vostro progetto I Super Sportivi e soprattutto appunto come arriva questa idea di avvicinare il mondo della disabilità alla montagna. Persone partecipano delle attività che promuovete appunto da questo punto di vista? Allora, oggi abbiamo 20 persone, di cui una decina di ragazzini che si stanno tra l'altro avvicinando all'arrampicata sportiva indoor, perché questi soggetti nascono con ipotonia alle mani e ai piedi e già molti anni fa avevo intuito che questo tipo di lavoro poteva andare nella direzione di aiutarli a rafforzare naturalmente le loro dita, la loro mano, le loro braccia, per poi imparare anche a scrivere, perché noi abbiamo bambini, soprattutto autistici, che portiamo regolarmente a fare attività in montagna, di escursionismo, ma anche alcuni di alpinismo, hanno questo problema di ipotonia alle mani, per cui l'arrampicata è molto molto terapeutica. Tra virgolette, la parola terapeutica viene abusata un po' da tutti. Certo, poi appunto come tu ricordavi, essendo fortunatamente spesso luoghi dove ancora si può vivere una natura, paesaggi, quindi anche esperienze sensoriali, mi viene da dire, uniche, e questo sicuramente stimola in maniera particolare il nostro benessere, quindi a prescindere poi appunto dalle condizioni di fragilità o di disabilità in cui ognuno di noi si può trovare. Senti, voi se non erro siete a Lecco come base, o nel Lecchese comunque? Sì, come base delle attività escursionistiche alpinistiche sì, perché io vivo a Ballabio da 22 anni, ho amici guide in pensione che mi danno una mano e prediligo questo territorio che conosco molto bene, per cui andiamo con i ragazzini e Piani dei Resinelli, andiamo anche a Resegone, abbiamo l'anno scorso fatto dai Piani d'Erna alla Capanna Monza col Sentiero 5 un po' attrezzato, una bella uscita, e ragazzi, come dicevi tu, nella libertà, nello spazio naturale, hanno un cambiamento repentino delle loro caratteristiche comportamentali, per cui molti hanno parlato di montagna terapia, ho partecipato anch'io a dei convegni dove portano ragazzi con fibrosi cistica ad andare in quota, e posso garantire che è un ambiente sicuramente interessante, vanno gestiti con le dovute attenzioni da persone capaci naturalmente, e si trattano come normotipici. Io li tratto come normotipici per quando certo. Accompagniamo i bambini a fare alpinismo giovanile, né più né meno. Certamente, che è la cosa più giusta, credo. Senti, un'ultima cosa, per chi volesse contattarvi o per dare una mano o per partecipare delle vostre attività, o appunto perché avesse bisogno della vostra offerta, diciamo, educativa, come può rintracciarvi, dove può trovarvi? Allora, noi abbiamo un sito, isupersportivi.org, e di noi hanno parlato in molti, anche per quanto concerne la montagna. Su questo sito, sotto il video, potete vedere le attività dei bambini, tra cui autismo, andare oltre, che è un'arrampicata in Farnesia, la casa delle guide di Introbio, dove due o tre ragazzini autistici per la prima volta si cimentano sull'arrampicata in parete. Noi stiamo facendo cose strutturate, questi ragazzini li portiamo a arrampicare in strutture indoor, cominciano a gestire i suoi propri equilibri, li portiamo sul territorio, adesso abbiamo anche una collaborazione con il CAI Piacenza e cerchiamo di trovare collaborazioni con altre associazioni come la nostra che vanno comunque in montagna, o con il Club Alpino Italiano, perché rientra, se non erro, da molti anni il progetto Montagna Terapia, che secondo me deve essere particolarmente esteso a persone che hanno problemi di mobilità articolare, hanno problemi di gestione delle emozioni, per cui la montagna è sicuramente un ambiente ideale. Massimo, ti ringraziamo per queste belle cose che ci hai raccontato, i migliori auguri per le vostre attività e magari a incrociarsi a presto sui sentieri. Perfetto, grazie a voi, è stato un piacere, grazie. Incontri ravvicinati, faccia a faccia, soggetti luminosi identificati in avvicinamento. Niente panico, prima della tempesta c'è la quiete, dove la realtà sfoga l'ira, la fame e la sete. Adesso lanciano i componenti, trasformazione in atto per nuovi miscredenti. Parabole sfaccio, corpi danzanti caccio, bombardieri sonori delle terre inquiete. Di novelle rotanti faccio lieti, fusione di situazioni ad alto voltaggio. Mi rendo capace, tra una passione che urla e un inganno che tace. Dice il vero falsità, dice il falso verità, tutti fuori di goccia nel benessere dell'umanità. Forse c'è qualcosa che non va tra chi prende e chi dà, soluzioni migliori che pensi. Prima di avviarci verso la conclusione anche di questa puntata, dobbiamo fare il consueto ormai annuncio del venerdì. Perché un annuncio? Perché Picchi di Frequenza si avvicina ormai a passi da gigante al suo anniversario. La puntata numero 100 verrà festeggiata eccezionalmente di giovedì, il prossimo giovedì 19 aprile, dove a Milano, per la precisione, al quartiere Isola, nello specifico al piano terra, spazio sociale autogestito con sede in via Federico Confalonieri al civico numero 3. È la sede dell'APE di Milano, l'associazione dei proletari escursionisti che accompagna ogni singola puntata di questa trasmissione sin dal 2015, e anche lo spazio in cui vogliamo rinnovare il nostro invito ad essere in nostra compagnia per quello che sarà un live non di addio, però diciamo di arrivederci da parte di tutta la redazione. Quindi, se avete voglia, cominciamo adesso con qualche appello. C'è una pagina Facebook, Picchi di Frequenza, al di sopra trovate un evento. Se avete amici, conoscenti, parenti, voi stessi, qualcuno che frequenta la montagna e l'ama per come piace a noi, vi proponiamo di condividere, far partecipare, insomma invitare amici a questo contatti, a questa iniziativa. Il live di Picchi di Frequenza, eccezionalmente di giovedì 19 aprile, in occasione con il pubblico, con la nostra comunità, della puntata numero 100. O solo curiosi, alla ricerca di qualcosa di nuovo, per catturare emozioni che non ricordi più, alla ricerca di qualcosa di strano, il piacere garantito poi non ti va più, alla ricerca di quello che sei, di quello che sente, di quello che è sotto. Venuto dal mare, sono la lisca di un animale, sono una conchiglia, sono una bottiglia, sono sopra il molo di una notte che piglia, perso nella rete di una notte di maggio, sono di passaggio, perso nella rete di una notte di maggio, sono di passaggio, sono del villaggio. Anche questa puntata, ed era la numero 96 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto, spero vi sia piaciuta, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi ricordo dove ci potete trovare. Picchi di Frequenza è una trasmissione, un settimanale di Radio Onda d'Urto, è un settimanale di montagna, la montagna a 360 gradi, quella vicina e quella distante, da un punto di vista geografico, ma non soltanto. Picchi di Frequenza la trovate dove? Anzitutto sul nostro sito internet, laddove l'archivio è disponibile liberamente in streaming e download all'indirizzo amonte.info. Poi sul social network blu alla pagina omonima, o quello azzurro all'account @abuzzo3. Per tutto il resto noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.